Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Diamo il via questa sera a un nuovo speciale di Smart City del ciclo Il futuro è oggi, che dedichiamo alla seconda rivoluzione quantistica, ormai alle porte, anche in considerazione del lancio della Quantum Technology o QT Flagship. I programmi Flagship sono programmi speciali di finanziamento alla ricerca dedicati a settori considerati strategici a cui l'Unione Europea assegna 1 miliardo di euro. Il QT Flagship è il terzo e, come i precedenti programmi Flagship, guarda un settore dove da un lato ricerca di base e ricerca applicata devono collaborare strettamente se vogliono produrre dei risultati concreti, e dall'altro sono tutti settori dove le aspettative sono altissime. A presiedere il comitato italiano del QT Flagship in Italia c'è Massimo Inguscio, fisico di chiara fama, presidente del CNR, il più grande ente di ricerca italiano. Buonasera Inguscio. Buonasera a lei. Senta, allora, anche se non ce ne rendiamo conto, in realtà noi viviamo già nel mezzo della prima rivoluzione quantistica. Non ce ne rendiamo conto perché usiamo questi oggetti in realtà tutti i giorni. Che cosa ci ha portato, appunto? Ce lo ricorda la prima rivoluzione quantistica? Ma guardi, la meccanica quantistica è la più grande rivoluzione, probabilmente anche filosofica, del secolo scorso, perché ci porta a cercare di capire cos'è la realtà e come si comportano gli oggetti microscopici, quindi gli elettroni, gli atomi. Per capire questo sono state introdotte dei concetti, che so che un elettrone sia al tempo stesso una particella, ma anche sia delocalizzato, sia un'onda, oppure che l'energia non si distribuisca in maniera continua, ma per livelli speciali di energia. Diciamo, da questi a volte postulati che sono stati fatti nel costruire la meccanica quantistica è scaturito l'invenzione del laser, del transistor, tutto il mondo dei semiconduttori. Insomma, laser, computer, pannelli fotovoltaici, LED sono tutti figli della prima rivoluzione quantistica, nata dalla capacità che abbiamo acquisito a un certo punto di manipolare alcuni effetti quantistici, i più semplici, diciamo così. Adesso si tratta, per fare un balzo in avanti, di manipolare effetti quantistici molto più sottili, per esempio il cosiddetto spin, cioè l'orientamento magnetico di singole particelle, o l'entanglement, questo misterioso legame fra particelle anche molto lontane fra loro. Ecco, quali sono le difficoltà che bisogna riuscire a superare per fare questo salto di scala? Diciamo, nella meccanica quantistica io non so, se un elettrone è un certo di energia o nell'altro, perché può stare in tutti e due, oppure se lo spin, il laghetto magnetico di un elettrone o di una particella orientato verso l'alto, verso il basso, ma può stare in tutta una sovrapposizione di stati. Allora, questi stati di sovrapposizione su cui si basa il calcolo quantistico, si basano gli orologi più raffinati che noi costruiamo, i sensori più raffinati che costruiamo, sono stati, fragili, cioè appena io cerco di intercettarli, di toccarli, si distruggono. E il termine tecnico è quello che perdono la coerenza, cioè dire che un atomo può stare da una parte o dall'altra significa che c'è una coerenza fra le due possibilità. Allora la grande sfida è vincere questa fragilità, e quindi per rendere i tempi di coerenza, quelli in cui c'è un atomo, riuscite a maneggiare questa roba, fondamentalmente il tempo per cui riuscite, se vuole una lotta contro il tempo, bisogna allungare il tempo di questi stati quantistici in maniera tale da renderli davvero poi utilizzabili, in applicazioni concrete. Dunque, il Quantum Manifesto, a cui poi il progetto Flagship è ispirato, disegna anche una sorta di roadmap tecnologica di quello che possiamo aspettarci da qui al 2035. Ecco, ci aiuta a fare questo percorso? Bene, ci sono degli strumenti che noi abbiamo che sono già delle realtà, e lì si tratta di migliorarle sempre di più. Questi sono gli orologi, i sensori. Al tempo stesso ci sono delle cose che sono un po' più lontane. Il più lontano di tutti è il calcolatore quantistico, quindi questo verrà alla fine. Però nel frattempo, sempre nella roadmap, c'è il simulatore quantistico. Il simulatore quantistico significa che io riesco in laboratorio a simulare nuovi materiali, oppure fare modelli di mondi lontani per fare sensori raffinatissimi, nuovi, che si basano sulla superconduttività. Questi sono i simulatori quantistici. Allora la roadmap è fatta di tante cose con una crescente difficoltà, e poi soprattutto è fatta di tante tecniche diverse che si mescolano e anche tanta teoria. Questa è la ragione per la quale il Consiglio Nazionale di Ricerche, coinvolgendo tutti gli altri enti italiani, tipo l'INFN, l'ASI, che so, ma anche tutto il mondo universitario, diciamo, mette tutto questo a sistema. Ma soprattutto questa difficoltà crescente, quindi questo stimolo a costruire cose nuove, ci dà davvero un grande futuro. E il grande futuro qual è? È quello che io non riesco a prevedere. Cioè, certo. Noi ci aspettiamo in questa roadmap che ci siano le cose più interessanti sono quelle che non riusciamo in questo momento probabilmente certo, a prevedere. Sono le scoperte, come sempre avviene. Va bene, grazie Massimo Inguscio, presidente del CNR. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, ci sentiamo domani per il primo approfondimento intorno alle Quantum Technologies. Buona serata.